Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Discuteremo e parleremo molto di stipendi dei manager, perché era l'oggetto principale di questo anche vertice Ecofin. Dico subito nulla di fatto sui bonus. Da un lato infatti il nostro ministro dell'economia Vittorio Grilli ha detto l'accordo c'è, abbiamo approvato un testo, una proposta di compromesso, però se riusciremo in sede tecnica a migliorare il testo meglio ancora, c'è comunque una larga convergenza. In realtà è deluso il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz per la mancata approvazione nel vertice Ecofin sui requisiti di capitale delle banche e sul tetto ai bonus dei banchieri. Di questo si parla anche perché, come ricorderete, nel fine settimana in Svizzera vi è stato un referendum dove il 68% di chi ha votato ha detto di essere favorevole a porre un limite ai super stipendi. La regolamentazione sui maxi stipendi doveva ricevere oggi via libera, ma molto osteggiata dal premier britannico David Cameron, perché il tetto interesserebbe almeno 5.000 banchieri di Londra. In realtà, più che fare gli interessi della Gran Bretagna, Cameron fa gli interessi della City, della piazza finanziaria più importante al mondo, assieme a Wall Street e a Hong Kong, e quindi appunto la City londinese. L'accordo vero e proprio non c'è, vuole risolvere l'Unione Europea alcuni dettagli tecnici, però sarà, tra l'altro il Financial Times oggi riportava che le maggiori banche della City stanno anche ipotizzando di avanzare un'azione legale contro l'Unione Europea. Il tema però c'è tutto ed è molto banale a mio avviso, molto semplice più che banale, e cioè in un periodo in cui all'Europa e all'area euro in particolare vengono chiesti sacrifici in termini di disoccupazione, riduzione dei salari, maggiore produttività, innalzamento dell'età pensionabile, anche oggi l'Ecofin è tornato a chiedere riduzione del costo della sanità, e quindi vengono chiesti sacrifici a tutti gli europei cittadini, beh, forse si può anche ragionare su quali, più che sacrifici, quali contenimenti dei bonus possono avere i manager. Nel caso specifico si parla molto dei manager finanziari delle banche, perché è lì che vediamo le maggiori remunerazioni. Nel mondo dell'industria, va detto spesso, e anche dei servizi, non abbiamo dei bonus così milionari come quelli di solito, come quelli che vediamo nel mondo delle banche, tant'è che la notizia di oggi arriva dopo che ieri sera si è saputo che HSBC, uno dei principali gruppi bancari al mondo, nonostante sia tartassata dalle multe e abbia chiuso il 2012 con un utile prima delle tasse in calo del 5,5%, sempre a 20 miliardi di dollari di utile, e ha dovuto patteggiare sulla vicenda, ricordate, del riciclaggio di denaro, una multa record con le autorità americane da 1.920 milioni di dollari. Ebbene, nonostante questo, il suo numero uno, Stuart Gulliver, si è visto riconoscere un bonus che, sommato allo stipendio, gli fa intascare 11 milioni di dollari in un anno. Ora, si può toccare il tema di quanto possa essere lo stipendio di un manager? Dico subito una cosa, se uno è il proprietario del suo gruppo, se è l'azionista di maggioranza, fatti suoi, nel senso rischia, è suo il gruppo e decide quello che vuole. Qui stiamo parlando di manager assunti, di società con azionisti, e capire se un uomo, per quanto bravo, per quanto di valore, possa valere così tanti soldi. Lo dico perché, e poi concludo perché ne parleremo nella seconda ora del programma, se andiamo a vedere i rapporti degli anni passati, beh, ci sono delle cose molto interessanti, lo citiamo spesso. Negli anni 70 il rapporto tra top manager e dipendenti nelle prime 100 società americane era pari a 1/35, cioè per 1.000 euro che guadagnava in media, poniamo il dipendente, 1.000 dollari, il top manager ne guadagnava al mese 35 volte tanto, cioè 35.000. Siamo passati a 1/274 prima della crisi nel 2007, con obiettivamente dei numeri che non si giustificano, anche perché non penso che i manager fossero negli anni 70 così peggiori da valere un quinto di quello che valevano fino al 2007, anche perché poi nel 2008 molte di queste banche sono state causa della più grande crisi finanziaria negli ultimi 50 anni. Do un ultimo dato, visto che parleremo anche di Marchionne, ma per alcune dichiarazioni che oggi ha rilasciato a margine del Salone dell'Auto di Ginevra, Valletta, il mitico Valletta, quello che creò la Fiat degli anni 50, negli anni 60, la 500, la 600, insomma, Valletta guadagnava 20 volte un dipendente, con bonus inclusi, negli anni 50. Marchionne adesso, di tutto legittimo, guadagna 1000 volte un dipendente medio Fiat. Adesso va bene tutto, Marchionne sarà anche bravo, però al di là di lui dire che Valletta vale 50 volte in meno Marchionne mi sembra un po' eccessivo anche storicamente. Evidentemente c'è qualcosa che è cambiato nel modo di remunerare i top managers e anche in chi deve decidere queste remunerazioni, perché infatti spesso gli azionisti possono decidere solo della politica sulle remunerazioni, ma non dei soldi effettivamente poi staccati, stanziati. Perché no gli sportivi e i calciatori? Perché, guardi, lo dico subito a chi scrive, non c'entra niente il tema. Se un proprietario di una squadra di calcio vuole spendere milioni e milioni suoi per un calciatore, farà i conti, poi l'importante è che i bilanci siano a posto, sono soldi suoi. Qui stiamo parlando di manager bancari, a capo di manager della finanza, a capo di società spesso quotate, comunque con migliaia di azionisti che non sono i padroni della banca, non è loro, non sono gli azionisti di riferimento, gli azionisti di maggioranza. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo però anche delle preoccupazioni ancora europee, delle tensioni sull'euro, ma anche di una buona notizia che arriva dalla Sicilia. Allora la borsa intanto oggi va bene, più 2,45% Milano, più 2,20% Parigi, più 2,44% Francoforte, più 1,30% Londra, l'America guadagna l'1,12%, euro su dollaro quota 1,30,29, va male il Banco Popolare, perde il 3,11%, ma vanno molto bene altri titoli, penso a Mediobanca più 5,70%, Intesa San Paolo più 4,30%. E ancora Generali più 3,80, Unicredito più 3,40, questo per restare sui titoli finanziari, mentre è fortissima Saipem più 8,16%, Azimut più 6,20%, Fiat molto forte più 5,40% e ancora Fiat Industrial più 4,25%, Telecom più 4, A2A più 4 e Eni più 2,70%. Ancora per quello che riguarda chi perde, ho citato il Banco Popolare, c'è Atlantia che perde l'1,20, Ansaldo CTS che perde l'1%. Dicevamo, al di là di quelli che saranno temi di approfondimento del programma, c'è un altro dato che riguarda la borsa. Oggi intorno alle 15.40 il Dow Jones è arrivato, quindi l'indice americano, ai livelli più alti nella sua storia, ha superato la chiusura più alta della sua storia, registrata nell'ottobre del 2007. È infatti arrivato a 14.208 punti. E voglio dire, a significare che l'America sarà anche in difficoltà, ma la borsa ha non solo recuperato tutti i livelli persi dal 2008 in poi, ma li ha addirittura superati. In questo momento siamo a 14.281 punti, quindi sempre record. Volete sapere com'è lo spread? Intorno ai 335-340 punti, il rendimento del BTP a 10 anni è al 4,8%. E poi c'è l'allarme della Banca d'Italia che dice, ci riferiamo all'Italia chiaramente, che il 65% delle famiglie hanno un reddito e hanno valutato il proprio reddito come inferiore al necessario, ed è aumentata la quota di coloro che hanno un reddito insufficiente a coprire i consumi. Per fortuna, almeno per ora, l'agenzia di rating, quelli che danno i voti ai debiti degli stati, Standard & Poor's, ha detto che non vi è un impatto dell'elettorale sul rating, sul voto del paese Italia. L'ho detto Moritz Kramer, che è responsabile europeo per i rating sui debiti sovrani. Dall'Italia sappiamo, abbiamo oggi due buone notizie, anzi una sarà un approfondimento, l'altra riguarda la Ferrari, perché i 3.000 dipendenti della Ferrari riceveranno a marzo un bonus di oltre 7.000 euro, incluso il contratto integrativo, perché hanno raggiunto tutti gli obiettivi a 3 anni. Lo ha reso noto il presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, sempre al Salone dell'Auto di Ginevra. Nel frattempo, sulla vicenda Monte dei Paschi, alcuni aggiornamenti invece, perché nell'inchiesta per l'associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Monte dei Paschi, i finanzieri del nucleo speciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato oggi somme e titoli azionari pari a circa 6 milioni di euro, e c'è un nuovo filone dell'inchiesta, quello che stamattina ha portato a Lecce e a Torino. L'inchiesta riguarderebbe un'ipotesi di insider trading e perquisizioni presso terzi riguardano Michele Briamonti e Lorenzo Gorgoni, consiglieri del Monte dei Paschi, che però non risultano indagati. L'altra buona notizia riguarda la Sicilia, però ve la do dopo, purtroppo, un insieme di notizie non belle sugli sprechi delle nostre regioni. Devo purtroppo tornare su un tema che vorrei al più presto abbandonare. C'è qualcuno che già mi scrive su Mastra Pasqua, sul presidente dell'INPS. Insomma, Mastra Pasqua, io non so se rientra nel tema dei bonus, perché lui lavora all'INPS e lì le politiche nelle società dello Stato, della pubblica amministrazione, sono diverse, però lui distribuisce ogni mese 23 milioni di pensioni, e va bene. Però la cosa interessante di Mastra Pasqua è che lui ha 24 incarichi che ha accumulato negli ultimi anni, oltre al presidente dell'INPS, a cui fu designato 5 anni fa. Il compenso per l'INPS è di soli 216.000 euro, ma secondo i calcoli fatti prima fra tutte anche la vicepresidenza di Equitalia, l'insieme delle 24 cariche porta a un guadagno di 1.200.000 euro. Ora, al di là del guadagno, ma è normale che uno abbia 24 cariche? Non lo so, chiedo, ce la fa veramente a far tutto? Da Mastra Pasqua però alla regione Lazio, che non manca mai di fornirci materiale interessante su come utilizzare bene i soldi dei contribuenti. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, allora sì, c'è lo spread leggermente sceso, ha ragione un ascoltatore, e non è più a 335, a 327. Comunque, mentre prosegue la spending review della regione Campania, ufficialmente all'asta le autovetture utilizzate dagli assessori, le auto sono 13, 9 Alfa Romeo, una Lancia Tesis, tutte di cilindrata superiore ai 1600 cc, può partecipare chiunque vuole all'asta e ci si può candidare anche per comprare solo una delle auto. La stretta non è solo sulle auto, ma anche sui costi di gestione delle vetture, che si aggirano intorno ai 5.000 euro l'anno. Nel frattempo continuano ad arrivare pagine sulle spese d'oro infinite della regione Lazio. Io ieri l'ho raccontato, 2 milioni di di euro le spese di rappresentanza messe a budget dal Consiglio regionale, 2 milioni di euro di spese di rappresentanza. L'allora presidente Mario Abruzzese, alla voce spese per il funzionamento dei gruppi consigliari 13 milioni e 900 mila euro. Ma continua, perché ieri raccontavamo dell'iniziativa I Love Alatri, Città di Anagni e quant'altro, ma poi ci sono anche i soldi dati al gruppo folk Ciociaro Valle di Comino, alla confraternita Sant'Antonio da Padova, al centro ippico San Pasquale, tutti i contributi leciti, ci mancherebbe. Però poi, se uno va a vedere, spulciando il bilancio, quali fossero gli abitué del bar della Pisana appaltato alla gestione dei servizi integrati, si scopre che il 20 gennaio per il servizio bar se ne vanno 1.636 euro di una fattura, 980 per un'altra e 590 per una terza. Poi c'è il servizio buvette, e anche lì in un giorno 400 euro, buvette presenta 380 euro, e coffee break da 1.800 euro e buffet sale etruschi da 330 euro, senza contare le fatture alla San Peter Foto per foto del presidente e servizi vari. Per carità, tutto legittimo, ci si chiede se sia normale che il presidente del Consiglio della Regione Lazio abbia un budget di spese di rappresentanza che è 25 volte quello del presidente della Repubblica Federale Tedesca. Però arriva una buona notizia, per questo vorrei, e da questa vorrei partire, e cioè la Regione Sicilia, sembrerebbe, la cautela è d'obbligo in questi casi, aver iniziato un processo virtuoso che noi ci auguriamo apri pista nei confronti delle province. 349-238-6666 per gli sms e Focus Economia su Facebook. Siete cattivi, volete che ricordi ancora le spese per le Mont Blanc del presidente? 4.500 euro per 300 euro all'una sostanzialmente per le spese Mont Blanc, oppure le sovvenzioni alla saga della bistecca, alla festa della mietitura. Dai, lasciamo stare, andiamo sulle cose positive di oggi, perché in serata la giunta regionale riunita dal presidente Rosario Crocetta ha approvato il disegno di legge che abolisce le 9 province regionali sostituendole con liberi consorzi tra comuni, come prevede lo statuto speciale. Il DDL sarà trasmesso domani alla Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il risparmio, spero di aver capito bene, stimato subito di questa operazione di 10 milioni e 300 mila euro. Il nostro Nino Amadore è in collegamento da Palermo. Buonasera Nino. Sì, buonasera a tutti. 10 milioni di euro subito così, di risparmio? Ho capito bene? No, di più sono. Si arriva a regime a 50 milioni l'anno di risparmio. Hai capito. Come spese, diciamo, per questa è una parte di tutte le spese delle province, perché le province siciliane non sono come le province che avete voi, noi abbiamo, si chiamano province regionali perché con una legge sono state istituite, è quasi una forzatura, non le prevede lo statuto che, come tutti sanno, è legge costituzionale, e dunque hanno aggirato, fra virgolette, lo statuto per creare e istituire le province, mm-hmm. che hanno consiglieri, presidenti, funzionari, dirigenti, auto blu, competenze su strade, competenze su scuole, insomma, sono macchine complesse. E quindi cosa capiterà, perché sono 9, no? Palermo, Catania, Messina, Trapani, Enna, allora, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento e Ragusa, che capiterà? Capiterà che finalmente sarà attuata, diciamo, anche in Sicilia magari la norma sulle aree metropolitane, quindi tre città, quindi Messina, Catania e Palermo, diventeranno aree metropolitane con una rilevanza, sì, particolare per la loro natura di due, Palermo e Catania per essere grandi città e grandi, sì, centri, Messina per essere un centro di passaggio importante perché sta a cavallo fra la Sicilia, sostanzialmente si affaccia un po' sullo stretto e diventa importante. Ti ringrazio per questa precisazione, perché era importante, no, nel senso che evidentemente ritieni che ho un pubblico, insomma, Ancora le prime armi, no, a parte gli scherzi, Nino, però... No, perché, sai perché lo dico? Perché era stata prevista addirittura un'area metropolitana dello Stretto insieme a Reggio Calabria, quindi diciamo la proiezione potrebbe essere quella di creare un'altra area metropolitana insieme a Reggio Calabria con un unico... Però senza ponte adesso. Ponte, perché c'è, diciamo, il ponte non c'è più, però c'è un sistema il ponte non c'è mai integrato. Stato, diciamo, non c'è più. No, c'è più non c'è più. Con c'è nostra più, grande soddisfazione, perché da sempre... Non c'è mai stato... No, perché poi è qualche piccolo problema nella zona periferica di Messina, diciamo le verifiche per la costruzione del ponte lo hanno creato i cittadini, ci sono state manifestazioni, quindi una parte fisica in realtà c'è stata a Messina. Comunque, tornando invece alle province, se ho ben capito, Crocetta, che è il neo governatore della regione Sicilia, che ha quell'accordo con i grillini che spesso molti evocano come il metodo Crocetta, a livello nazionale, utilizzerà questi soldi per introdurre il reddito minimo di solidarietà? Sì, che assomiglia molto a quello che propone Grillo, il reddito di cittadinanza. Sì, e a quanto ammonterebbe questa cosa? Ma guarda, una parte di questi fondi saranno destinati sicuramente a questa, diciamo, missione sociale che Crocetta, per la verità, anche in campagna elettorale aveva manifestato, era già presente nel suo programma. Per il momento, diciamo, la cosa concreta che vedo io è una cosa che un tempo si chiamava cantieri scuola e oggi si chiama in un altro modo, dove saranno messi, investiti, cioè 70 milioni, cioè sono posti di lavoro risparmiati dalle province. Domanda che fanno alcuni ascoltatori, hanno ragione, ai dipendenti di quelle province che succede? Cioè, questo risparmio arriva perché? Perché chiudi strutture, elimini consulenze? Dimmi. No, si eliminano consulenze, strutture, ma i dipendenti non saranno toccati, cioè, non mi pare che si parli, non è in discussione il licenziamento di nessuno. E c'è un'altra notizia che arriva, a mio avviso sempre virtuosa, dalla Sicilia, e riguarda i Trinacria Bond, ossia i bond. Trinacria è il simbolo della regione siciliana, per pagare i crediti alle piccole e medie, cioè i debiti che vanta la pubblica amministrazione, in quel caso la regione Sicilia, con le piccole e medie imprese, no? Sì, sì, fino a ieri si parlava di emissioni, possiamo dirla così, cioè di coprire i 2 miliardi che poi diventano anche 6 se consideriamo la sanità e altre cose, di debiti che la regione ha nei confronti delle imprese. Oggi Crocetta in conferenza stampa ha detto che la copertura è prevista per 500 milioni di euro. Comunque sarebbe una bella, diciamo, una bella cosa, perché qui cioè, come in tutto il resto del paese, c'è una situazione abbastanza critica, qui di più perché abbiamo il tessuto economico è molto fragile. Sì, però devo dire una cosa adesso, senza buttarla in politica in senso stretto, però attenzione, perché uno poi va a studiare l'universo di Grillo, quello che volete, ma quant'è il peso del Movimento 5 Stelle su Crocetta, che ha portato Crocetta poi a prendere queste scelte? Perché quando io vedo il reddito minimo di solidarietà, abolizione delle province, insomma, lì c'è un po' del programma anche di Grillo, inutile girarci attorno. Ma allora, il peso di Grillo è molto forte, ovviamente, perché Crocetta, senza voti, come si è visto anche nel caso del voto per il documento di programmazione economica e finanziaria, senza il voto dei grillini non passa nulla, non c'è la governabilità all'Assemblea. È una governabilità cercata giorno per giorno, non c'è un accordo di governo, non sono presenti in giunta, tutto quello che vogliamo, ma senza i grillini l'Assemblea sarebbe semi-paralizzata, perché questa è abbastanza evidente questo fatto. No, lo dico perché appunto poi sono questi, io, almeno da quello che noi vediamo dal nostro modestissimo e parzialissimo osservatorio, tutte le volte che in un periodo di crisi, recessione economica, richieste, sacrifici, tagli, austerità, c'è qualche notizia che riguarda poi l'autoriduzione dei costi della politica, in questo caso, e dell'amministrazione, visto che parliamo di province, diciamo che l'applauso è il minimo che arriva da parte degli ascoltatori. Tra l'altro faccio anche notare che è vero, lo ricordate, ma era su tutti i giornali, il Movimento 5 Stelle ha detto che rinuncerà a tutti i soldi di contributo del finanziamento pubblico ai partiti. Grazie a Nino Amadore in collegamento con noi da Palermo. Intanto si può anche dare una buona notizia su questo tema e poi vedremo, qualcuno mi dice state attenti, vigilate che non sia una bufala. No, certo che vigileremo, però insomma quello questo risparmiare 10 miliardi subito e 50 milioni a regime mi sembra una gran bella cosa, abbiate pazienza, non si può sempre criticare. Detto questo, chi mi chiede quanto costa però la penale per lo Stato per non aver fatto il ponte sullo stretto, da quello che abbiamo visto 45 milioni di euro, che comunque è sempre meglio dei 7 miliardi che sarebbe costato. Lo so che sono soldi sprecati, però quella è una penale lì, cioè, parlano gli accordi. Meglio buttarne via 45 che avere poi 7 miliardi che diventano 10, 11, 12. Vabbè, c'è anche chi dice non serviranno un cavolo questi 50 milioni, ma no, iniziamo da queste cose, abbiate pazienza. Magari ci si costruisce qualche scuola, aveva ragione Nino Amadore, magari non faranno il reddito di minimo di solidarietà. Io sono molto, molto diciamo, dubbioso, perché l'esperienza nel passato ci dimostra che quando tu dai dei sussidi di disoccupazione così alti, tendi a non invogliare le persone a lavorare, mettiamolo così. Questo anche in paesi anglosassoni, penso all'Australia degli anni 70-80, insomma, in cui si è scoperto che poi c'è un effetto perverso dei salari di disoccupazione quando sono elevati. Altra cosa invece è investire e creare lavoro. Comunque adesso c'è il metodo, la pubblicità, e poi invece andiamo con la borsa, che ha chiuso sui massimi più 2,80%, ma non senza passare da Ginevra e Bruxelles. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora ci spostiamo, dicevo, a Bruxelles e poi a Ginevra, riunione del vertice Ecofin, quindi ministri economico-finanziari dell'area euro ieri sera, oggi dell'intera Europa. Vittorio Grilli a rappresentare l'Italia, il tema principale, come ricordavamo, ma ne parleremo più avanti, riguardava anche i bonus dei manager. Però è chiaro, mentre l'Eurogruppo ieri ha chiesto lumi al ministro Grilli per sapere che ne sarà del paese dopo il, chiamiamolo così, complesso risultato elettorale, il salvataggio di Cipro è rimandato a fine mese, mentre la Francia ha riaperto, anche prendendo spunto dal voto italiano, il dibattito sui danni dell'austerità. La cosa interessante però è che perfino l'Olanda si è sollevata contro l'austerità, manifestazioni contro i nuovi tagli per centrare l'obiettivo del deficit, manifestazione enorme, 1,5 milioni di persone anche in Portogallo l'altro ieri, e poi una dichiarazione che oggi trovate sul quotidiano La Repubblica dell'economista Paul De Grove, consulente di Barroso, del presidente della Commissione Europea Barroso, che ha detto la politica dell'austerità è un suicidio, l'Europa ha colpe enormi. Una politica fatta di austerità ad ogni costo rischia di dilazionare la ripresa italiana, e tra l'altro se si lascia l'Italia in balia degli eventi aspettando questo mitico governo stabile c'è tutto il tempo perché il paese frani, trascinando nel gorgo tutto l'euro, e chiunque avalli l'uscita dell'Italia dall'euro si porterà la responsabilità di aver causato una spaventosa destabilizzazione globale con effetti e durate imprevedibili. E intanto la Spagna ha detto no alle nuove misure chieste da Bruxelles, quindi non vuole aumentare di nuovo l'IVA o altre imposte ambientali. Il governo ha detto Madrid ha una rotta chiara e le idee stabili su quali siano i passi da seguire. Adriana Ceretelli da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Ti sentiamo leggermente bassa. Allora, poi parleremo dei bonus dei manager nella seconda ora del programma, e va bene. Ma mi sembra che insomma le posizioni stiano diventando leggermente più articolate, o è un'impressione che riceviamo noi da qua leggendo le agenzie sul tema del commento al voto italiano e anche unica soluzione possibile per i prossimi anni un'austerità senza nessun tipo di altre iniziative per la crescita? Quello che riguarda l'Italia direi che quello che prevale è la preoccupazione e la paura che l'Italia possa causare una nuova crisi dell'euro, ma ben più grave di quella della Grecia. Quindi diciamo i commenti sono un po' a mezza bocca, ma quello che si coglie è appunto il timore di un ritorno dell'instabilità in Italia, instabilità che politicamente parlando era stata dimenticata ormai da anni, quindi insomma questo è il fatto. Nello stesso tempo non si vuole ovviamente entrare nelle dinamiche interne, perché in genere quando si entra nelle dinamiche interne dei paesi si fanno solo disastri, come si è visto, non so, la Merkel che ha appoggiato Sarkozy e naturalmente è stato eletto Hollande. Ma la Merkel chiunque allora, appoggia non gli va bene, perché appoggiava anche Monti, non mi sembra che... Esatto, e anche nel caso di Monti, diciamo, speriamo che non appoggi questo programma, non penso proprio. Avuto, perfetto, ecco. Esatto. Vabbè, invece per quello che riguarda, quindi insomma per l'Italia wait and see, incrociando le dita insomma sì, in sostanza, mentre per quello che riguarda l'austerità oramai il caso olandese è decisamente interessante, perché è la prima voce dell'Europa ricca e dell'Europa del nord, dell'Europa rigorista, che si leva contro l'austerità, non certo per solidarietà verso il sud, ma perché si constatano sulla propria pelle i guasti di una politica di rigore senso unico come è stata quella che è applicata ai paesi del sud, e quindi questo secondo me è un segnale molto interessante dal punto di vista proprio delle sì, dinamiche era il miglior europee, alleato della dire, Germania, era il miglior alleato della certo, Germania vuol dire che la Germania diciamo che fino a settembre continuerà sulla sua linea, perché io non posso immaginare che Angela Merkel, che ha avuto così successo e popolarità tra la sua gente con questo tipo di politica, certo, abbia nessuna intenzione di cambiarla, perché vuole vincere le elezioni. Dopo le elezioni magari se ne potrebbe ragionare. Nel frattempo però, a onor del vero, bisogna dire che c'è questa nuova flessibilità interpretativa delle nuove regole della stabilità autorizzata dalla Merkel. In sostanza non cambia l'impegno a rigore, ma cambiano i tempi si raggiungono gli obiettivi, e infatti la Francia, che quest'anno avrebbe violato le regole del nuovo patto e sarebbe in corsa in multe, si vedrà invece concedere un anno in più, e lo stesso vale per l'Olanda, che proprio ieri ha detto noi non faremo una ulteriore manovra. Gli olandesi avevano tagliato già in ottobre 16 miliardi di spesa pubblica, sì, avrebbero dovuto tagliarne altri 4 per centrare l'obiettivo del 3% del deficit quest'anno, ed è su questo che si sono rifiutati, e quindi faranno i tagli ma l'anno prossimo, perché dicono sarebbe stupido aggiungere austerità in un periodo di recessione, perché non farebbe che aggravare la recessione, che è quello che i poveri del sud dicono da mesi e mesi inascoltati. Sì, diciamo non solo loro, oggi c'è un bellissimo intervento di Stiglitz, premio Nobel. Assolutamente, beh certo, poi c'è il Fondo Monetario. C'è il Fondo Monetario con niente poco di meno che il capo economista del Fondo Monetario, che dice Blanchard, dice... Certo. Abbiamo sbagliato tutto sostanzialmente, certo, i tagli senza altre iniziative stanno avvitando l'Europa nella recessione, il modello greco, la cavia greca come la chiamiamo noi, era già lì a dimostrarci quello che poi purtroppo sta accadendo anche a noi e ad altri paesi. Interessante che tu sottolinei questo distinguo olandese, e sono d'accordo con te che fino a settembre la Germania difficilmente cambierà rotta, vanno verso elezioni, la Merkel insomma, dovrebbe essere riconfermata, però insomma qualcosa su questo si muove, e anche la posizione spagnola e la posizione olandese la dicono lunga, poi da lì agli atti concreti ce ne vuole. La cosa interessante però nel ringraziare Diana Ceretelli è che oggi di euro e di Europa, di tenuta dell'Italia e di presenza e permanenza dell'Italia nell'euro si è parlato non solo e non tanto a Bruxelles ma soprattutto a Ginevra. A meno che non ci sia proprio una rottura del paese, cioè nel senso che se dovesse uscire dall'euro, per esempio, cosa che ieri sera se ne parlava ieri, questa conseguenza è enorme. Qualsiasi multinazionale che dovrebbe investire nel paese, e credo che quello che abbiamo visto in Italia è una reazione piuttosto comprensibile alla mancanza di direzione strategica per il paese, e quindi ci sono risultati che in un senso erano quasi da aspettarseli, no? cosa importante è che adesso che stiamo cercando di sfasciare il tutto, che poi si ricostruisca qualcosa per il futuro. Io lo posso dire per esperienza, ho 60 anni adesso, quindi sfasciare è facile, ricostruire è molto molto più difficile. In questo momento di incertezza credo che ci sia parecchia gente al di fuori che non riesce a capire cosa sta succedendo in Italia, no? Di nuovo. E questa, considerando la nostra situazione con il debito pubblico, l'apertura che abbiamo verso i mercati finanziari, bisogna stare molto, molto attenti. Solo questo. Quindi il presidente Napolitano ha un grandissimo lavoro da fare adesso, di nuovo, per gestire questo processo di avanzamento di un'agenda politica, la gente è capace di gestire il paese. Dai, lo dico agli ascoltatori, non fate battute, non è Crozza, quello che parla è il reale Sergio Marchionne, oggi numero uno della Fiat, sono delegato alla Fiat a Ginevra per l'apertura del salone dell'auto, e avete sentito, ha detto parlare di referendum sull'euro non aiuta la stabilità del paese. E poi ha aggiunto: mi preoccupa la situazione economica italiana, non penso che ci sia una rottura del paese, però grandissima fiducia in Napolitano. E poi ha detto: attenzione però, se l'Italia dovesse uscire dall'euro e comunque l'ingovernabilità da sola non porterà al rinvio degli investimenti, a meno che non vi sia appunto un'uscita dell'Italia dall'euro, e questo bloccherebbe qualunque investimento Fiat nel paese. Andrea Malan, buonasera. Buonasera a tutti. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza perché c'è il traffico, e poi vorrei capire, insomma, Marchionne che è tornato a toccare soprattutto temi anche di politica, però insomma da Ginevra sono arrivate anche indicazioni sulle prossime mosse di Fiat, che per esempio non cambia gli obiettivi per il 2013. 349-238-6666, gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Dicevo, target confermati per il 2013, ma insomma, Marchionne, ti è sembrato, al di là delle, poi le agenzie hanno ripreso questa frase, se l'Italia esce dall'euro smettiamo gli investimenti in Italia, insomma mi sembra che stiamo ragionando in questo momento di fantascienza, dimmi. Sì, è più un'ipotesi appunto dell'improbabilità, cioè lui l'ha citato come ultimo ragionamento nel caso di un disastro totale, non credo che neanche lui ritenga l'ipotesi probabile più di tanto, quindi il vero problema qui è che la Fiat, così come la maggior parte dei concorrenti, non sanno bene che pesci pigliare in questo momento, cioè il mercato europeo va molto male, abbiamo visto ancora a febbraio Italia e Francia in forte calo, sì. Ieri la Germania ha annunciato un meno 10 per il più grosso mercato europeo, che l'anno scorso era andato abbastanza bene, quindi il discorso di mantenere i target inalterati vuol dire per ora stiamo fermi. Non lanciamo messaggi, diciamo, di panico e manteniamo la barra dritta, come si potrebbe dire. Certo c'è la preoccupazione, non a caso, per quanto riguarda gli investimenti a Mirafiori e a Cassino, Marchionne prende ancora tempo, dice ci stiamo riflettendo, dobbiamo farci un'idea entro la fine dell'anno, e questo credo che sia legato sicuramente alla accresciuta incertezza politica dopo le elezioni, ma anche a un mercato che proprio per questo motivo, anche per questo motivo, potrebbe avere una ripresa più tardi del previsto, e sappiamo quanto Marchionne abbia ribadito di non voler investire in un mercato disastroso. Questo... Quindi il ragionamento direi fosse più economico che politico, ecco. Sì, per cui dici prende tempo e si cautela, perché insomma le incertezze è ancora molto forte. Senti, oggi appunto è in corso la 83esima edizione del Salone dell'auto, che aprirà al pubblico, però se ho ben capito, il 7 marzo. Dopodomani. 100 anteprime, di cui 32 europee. Ecco, allargando il ragionamento, abbiamo visto che la Ferrari distribuirà 7.000 euro il mese prossimo, se ho ben capito, perché ai suoi dipendenti, perché hanno raggiunto l'obiettivo a 3 anni che si erano dati, ma anche che la Volkswagen ha annunciato che ci sono già più di 150.000 ordini della nuova Golf, che oggi ha ricevuto il premio di auto europea dell'anno. Allora, cioè, qui è un mercato che mi sembra sempre più dicotomico, che si sta spaccando in due, non sbaglio? Sì, la Volkswagen, diciamo che il gruppo Volkswagen va meglio degli altri, anche se in realtà negli ultimi tempi ha lanciato qualche segnale di prudenza. Per mettere le cifre nel contesto, diciamo che la nuova Golf è stata lanciata 6 mesi fa, 150.000 ordini per un modello che negli anni d'oro vendeva 600-700.000 vetture, non è una cifra esagerata. Adesso magari sono tanti, ecco, in questa congiuntura di mercato, però insomma, bisogna sempre stare attenti a verificare le cifre sugli ordini. Sicuramente il gruppo Volkswagen va meglio degli altri ed è uno dei pochi che l'anno scorso non ha perso soldi. Marchionne lo ha citato di nuovo oggi: se si mettono insieme Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Opel, sono 5 miliardi di euro di perdite nel 2012. Fiat ha contribuito con un po' meno di 1 miliardo, gli altri hanno perso di più. L'obiettivo di tutti per quest'anno è perdere meno, con un mercato che però tutti sono d'accordo andrà peggio di quello del 2012. Quindi capirete che l'impresa è piuttosto difficile, tutti cercano di tagliare i costi dove possono, chi rinvia gli investimenti, chi taglia le spese il più possibile, chi ha annunciato chiusura degli stabilimenti. Da questo punto di vista Fiat è sicuramente avvantaggiata dal meccanismo della cassa integrazione che le permette di tenere gli stabilimenti chiusi per più di metà del tempo senza dover licenziare. Ecco, la novità più attesa per concludere, Andrea, da questo salone? Beh, le novità più attese, diciamo che tu l'hai citato prima come azienda, sicuramente la nuova Ferrari che con una decisione che io ho trovato curiosa si chiama la Ferrari. Alla milanese. Sì, esatto. Sì, è la novità più attesa per pochi, però mi sa. Perché Sì, per pochi, tenuto conto che il prezzo è 1.200.000 euro IVA compresa. Adesso ne parliamo. Il prossimo tema sarà proprio di chi se la può permettere, cioè i bonus dei super manager bancari. Per cui non penso tu te la voglia comprare, ma non voglio permettermi di investigare sulle tue. Con il nostro stipendio, sicuramente no, ma credo con lo stipendio del 99% degli italiani. Sentiti anche gli ultimi dati di Banca Italia sulle difficoltà di oggi. Senti, Andrea, le altre novità? Ma le altre novità, dunque, ci sono uno dei segmenti più popolari è il cosiddetto SUV di segmento B, cioè un SUV piccolino, quello che si chiama un crossover, quello in cui dovrebbe debuttare l'anno prossimo la famosa 500X. Qui al Salone ci sono la Peugeot 2008, la Renault Captur, quindi è un segmento in crescita, arriveranno anche la Volkswagen, arriverà, ricordiamo, prodotta a Melfi, gemella della 500, anche una piccola Jeep. È un modo per i costruttori di vendere vetture abbastanza piccole, quindi alla portata di molti, ma che danno dei margini magari di qualche centinaio di euro superiore. Grazie a Andrea Malan per averci raccontato questo marchionne a cavallo tra analisi politica e analisi economica, e quindi sul gruppo Fiat, insomma, stanno tutti molto molto coperti i produttori di auto, tranne la Volkswagen, appunto, e la Ferrari. Adesso però la borsa. Borsa che oggi non facciamo con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, c'è un'assemblea sindacale infatti in corso. E allora ringrazio il direttore investimenti di Aletti Gestiel, Fabrizio Fiorini, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, borsa più 2,80% Milano oggi, più 2% Parigi, più 2,30% Francoforte e più 1,36% Londra. L'America guadagna l'1%, ma la vera notizia è che il Dow Jones ha toccato un nuovo record dall'ottobre del 2007. Insomma, la borsa americana, in una battuta, poi dopo il GR ne faccio fare il resto del commento, ha cancellato ogni effetto della crisi? Diciamo, visivamente sembrerebbe così, essere tornati gli stessi valori del 2007, guardando solo l'indice, sembrerebbe così. Consideriamo che sono passati quasi 6 anni e quindi sono stati distribuiti dividendi, e nel Dow Jones le aziende che vanno male pesano sempre meno, quindi il Dow Jones è, come dire, un indice autoreferenziale, no? Sì, tende sempre a rimanere alto perché elimina le cose che vanno male e dà peso alle cose che vanno bene, quindi 5 anni dopo rivedere gli stessi prezzi non significa essere sui massimi, ma significa aver bruciato 5 anni di dividendi. Beh, anche questa è un'altra lettura, ha ragione anche lei, siamo tornati un po' sopra dove ci eravamo lasciati 5 anni fa. Dopo il GR invece i titoli italiani, molto bene oggi le banche, ma anche Saipem e Fiat. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, ritorna Focus Economia. Allora, stavamo commentando la borsa con chi dirige gli investimenti per Aletti GSTL, e quindi il dottor Fabrizio Fiorini. Dicevamo dell'America che è ritornata, lei la vedeva come per 5 anni, diciamo, abbiamo bruciato dividendi, siamo tornati al livello del Dow Jones dell'ottobre del 2007, anche un po' più alto. Veniamo invece all'Italia, molto forti oggi alcuni titoli. Vabbè, che T-Media vada male in borsa dopo l'annuncio della vendita a Cairo alla 7, meno 11,46%, era anche immaginabile, perché c'era chi aveva puntato sull'ipotesi di un'offerta pubblica obbligatoria da parte di Clessi, tra l'altro contendente per la 7. Però vorrei capire che è successo a Saipem, più 8,21%. Beh, diciamo che qui purtroppo è la riprova che non molto più dei fondamentali contano ancora le case di investimento. Oggi abbiamo avuto un upgrade da parte di Goldman Sachs di Saipem, e questo è valso l'8% al titolo senza che nulla di nuovo sia chiaramente emerso. Il giudizio di una di queste case è in grado di produrre questo tipo di effetti, quindi... Sì, su cui io da sempre, ma da tempi non sospetti, da 12 anni sono molto scettico, perché o mi dicono Goldman Sachs o chi per essa quanti titoli Saipem hanno in portafoglio, oppure che uno dica vendi e poi scopriamo che tu compri, come è successo nel passato, o compra e poi scopriamo che tu vendi, lascia sempre un po' perplesso. Magari non ha neanche un euro, però sarebbe bello saperlo, perché oggi con l'8,21% uno avesse avuto Saipem ieri ci guadagniamo un bel po', mettiamola così. La cosa interessante sarebbe vedere qual era il loro giudizio prima che Saipem perdesse il 40%. Sì, anche, no, ma io guardo sui report, non pare molto, mi sembra che si vivano quasi tutti in conflitto di interesse. Comunque, bene oggi anche i bancari, penso a Azimut più 6,50, bancari finanza, chiaramente Generali più 4,40, Intesa più 4,5. Cos'è lentamente, a parte un unico caso che è il Banco Popolare che perde il 2,70 e la Pop Milano che perde lo 0,90%, il mercato in attesa di capire quello che sarà il governo italiano si sta riposizionando dopo aver venduto a mani basse nei giorni successivi? Ma io penso che ancora una volta quello che sono le vicende politiche italiane siano state un po' messe da parte, a parte i primi giusto 2 giorni dove l'Italia ha subito, no, come un gradino all'ingiù di tutte le, sì, valutazioni, bond e azionarie. Dopodiché ha iniziato a muoversi col resto dell'Europa e con le notizie che arrivano dall'Europa. Quindi, per quanto riguarda i bancari, penso che in generale sul settore valga molto di più A, il buono stato di salute dell'intera industria equity in Europa, B, la possibilità che da questi 2 giorni di Consiglio dei Ministri, diciamo Consiglio Europeo, escano notizie positive sulla Unione Bancaria Europea. E quindi questo è il driver principale. Beneficiano, e questo va sottolineato, le banche più grosse. Unicredit e Intesa sono quelle che fanno meglio. Il Banco Popolare ha fatto un profit warning proprio stamattina e ha trascinato a ribasso tutte le piccole. Quindi le grandi beneficiano delle migliori prospettive legate all'unione bancaria, le piccole soffrono perché ciò che è capitato al Banco Popolare potrebbe essere una visaglia, sì, certo, di quello che potrebbe capitare alle piccole, cioè ancora accantonamenti chiesti da Banca d'Italia sui crediti, diciamo, difficili. Su prestiti fatti a persone o soggetti fisici che soggetti giuridici, mi scusi, che difficilmente te li ridaranno, e la Banca d'Italia ti chiede di mettere da parte dei soldi, questo vuol dire accantonare nel caso in cui questi prestiti che tu hai fatto non ti tornino più indietro. Mi dica anche un'altra cosa, dottor Fiorini, però oggi Fiat va molto bene, più 5,90% e più 4,80% Fiat Industrial. Ora, abbiamo prima ascoltato anche l'analisi delle parole di Marchione da Ginevra, non è che proprio il settore auto, al di là di Volkswagen e Ferrari, se la passi così bene, no? No, ma infatti a volte alcuni titoli, questo è il caso, vanno bene perché si pensava potessero andare male. Fiat era stata messa nel mirino perché poteva essere oggetto di aumento di capitale per comprare la parte rimanente di Chrysler che è ancora in mano ai sindacati. Oggi Fiat ha detto: noi nel caso dovessimo comprare non abbiamo bisogno di fare aumento di capitale. Ecco che la non notizia negativa genera un ritorno positivo. Quindi a volte, soprattutto sui titoli italiani, ma anche sui titoli europei, c'è già talmente tanto di negativo che basta veramente poco per fargli fare questi movimenti, perché quello che era possibile mettere nelle valutazioni è stato messo in termini negativi. Di positivo non c'è niente, quindi basta veramente poco per produrre questo tipo di effetti. E fa bene ricordare a lei che ci lavora tutti i giorni. Bene oggi anche la Banca Popolare di Spoleto, più 7,36%, Banca Generali più 7%, Brembo più 8,11%. 4,5%. Tra chi ben si è mosso anche molti del settore energetico, A2A più 4,21%, Eni più 3%. Mi sono perso qualcosa sul prezzo del petrolio o sui consumi elettrici? No, Fiorini. No, direi di no. C'è stata qualche notizia positiva dalla Germania sui consumi elettrici. C'è una volontà di alcune aziende elettriche grosse, soprattutto partenti dalla Germania, di distribuire il business, concentrarsi su aree di business, e quindi quando mancano temi basta poco, quindi quel tema a un certo punto ha preso il via e si è distribuito per tutta l'Europa, e quindi per simpatia molte volte i titoli si muovono, e abbiamo caso per caso situazioni di questo tipo, le piccole banche che si muovono in controtendenza, perché se andiamo a vedere i volumi probabilmente comunque hanno fatto un decimo dei volumi normali, in assenza di volumi partono le ricoperture, quindi i temi grossi sono banche, diciamo, alta capitalizzazione hanno fatto molto bene per la storia dell'unione bancaria, banche piccole per il Banco Popolare e gli accantonamenti, Fiat ha quella storia che abbiamo detto, Saipem la sua, le altre vanno soltanto per simpatia, non ci sono storie particolari. Grazie anche per la chiarezza al direttore investimenti di Aletti Gestielle, Fabrizio Fiorini. Arrivederci. Adesso parliamo di soldi, soldi e bonus. Bonus dei manager, e soprattutto si può ipotizzare un tetto ai bonus dei manager delle grandi banche, in primo luogo, visto che parliamo soprattutto di finanze. Apparentemente l'accordo non è così facile, perché la Gran Bretagna, cioè Cameron, sta facendo il Robin Hood della City, il Robin Hood dei 5.000 banchieri londinesi, o perlomeno che lavorano nella City di Londra, che potrebbero vedersi ridotto, e anche non di poco, lo stipendio complessivo se passasse la linea che l'Europa vorrebbe far passare, ossia quello di un accordo sui bonus dei manager. In realtà la Presidenza dell'Unione Europea ha rinviato l'accordo, vuole avere più tempo per risolvere i dettagli tecnici, per far entrare in vigore quello che si chiama CRD4, Capital Requirements Directive 4, e lo ha annunciato lo stesso ministro irlandese dell'economia Michael Nunn. Praticamente la regolamentazione sui maxi stipendi avrebbe dovuto ricevere via libera dall'Europarlamento in aprile e entrare in vigore dal 2014, osteggiata, dicevo, dal premier britannico Cameron, che ha detto siamo disposti a fare qualunque intervento pur di limitare, pronto a sfidare l'Unione Europea sui bonus. Però al di là dei 5.000 banchieri di Londra, io vorrei porre il tema in maniera molto, ripeto, semplice. Si chiede austerità a tutta l'Europa, all'area euro, la disoccupazione giovanile non solo è a record storico, aumentano le tasse, vengono tagliati i fondi. Beh, forse a questa così austerità complessiva possono partecipare anche i top manager bancari. La pensano così gli svizzeri, che non sono un pericoloso paese comunista. Il 68% degli svizzeri ha votato nel fine settimana per un limite ai super stipendi. Tra l'altro, cioè, a far partire questo referendum era stato lo scandalo suscitato dalla buonuscita che avrebbe dovuto prendere l'ex presidente del consiglio di amministrazione della Novartis, quindi gruppo farmaceutico. Daniel Vasella è stato infatti costretto a rinunciare a un bonus, cioè buonuscita e tutto, che valeva 60 milioni di euro. Ma nel frattempo ieri il numero uno di HSBC, colosso bancario mondiale con sede a Londra, Stuart Gulliver, ha intascato per l'anno 2012 11 milioni di dollari con bonus incluso, nonostante il titolo HSBC, la banca, abbia chiuso con un calo degli utili di 5,5%, sono sempre utili enormi, 20 miliardi di dollari di utile, e anche perché ha dovuto pagare una multa salatissima da quasi 2 miliardi di dollari alle autorità americane per l'accusa di riciclaggio di denaro. Allora, ne parliamo con, e poi vedremo anche alcune cifre, con Salvatore Bragantini, economista, editorialista Corriere della Sera, ex commissario Consob. Buonasera. Buonasera. Allora, c'è un film su questo, vi faccio ascoltare un breve brano, si chiama Un chilometro da Wall Street, è un film del 2000, ma racconta, secondo me, anche culturalmente come siamo arrivati a pagare nel 2007 in media i manager delle prime 100 società americane 240 volte lo stipendio medio, 275 volte lo stipendio medio di un loro dipendente, quando negli anni 70 il rapporto era di 1 a 35, cioè il top manager guadagnava al massimo in media 35 volte il dipendente, e non penso fossero manager meno capaci. Se lavorerete in questa società guadagnerete il vostro primo milione di dollari in 3 anni. È chiaro? Ve lo ripeto. Voi farete $1,000,000 in soli 3 anni. 3 anni dal primo giorno di impiego alla JT Marlin. Non c'è dubbio che diventerete milionari se lavorerete qui. Il solo dubbio è quanti milioni farete. Credete che scherzi? Non sto scherzando. Io sono un milionario. Strano sentirlo, vero? Vedete, è strano anche dirlo. Ma che piaccia o no, sono un milionario. E indovinate quanti anni ho? 27. E sapete cosa sono qui? Io qui sono un anziano. Per fortuna sono molto bravo nel mio lavoro, altrimenti sarei già fuori. Voi siete la nuova linfa e tornerete a casa ricchi. Mi sembrate tutti affamati di soldi. È un bene. Chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo. Volete dettagli? Bene. Io guido una Ferrari 355 Cabriolet. Che altro? Vivo in una splendida casa, nel South Fork. Ho qualsiasi gioco a cui possiate mai pensare. Ma soprattutto, dispongo di liquidità. Ok, ora avete visto che è possibile. E sapete come ci si arriva? Vogliamo dei vincitori, non dei perdenti. I perdenti lavorano a orario. I perdenti chiedono tutte le vacanze a cui hanno diritto. Vacanze. Chi lavora qui lo fa per un solo motivo. Diventare schifosamente ricco e basta. Non siamo qui per fare amicizia, non vogliamo salvare il mondo. Volete le vacanze? Andate a insegnare alle scuole pubbliche. Beh, era proprio così quel mondo Bragantini nel 2000. Detto questo, come si fa a porre dei tetti o un tetto ai bonus dei manager senza cadere nel populismo d'accatto, nel giacobinismo, nel manicheismo, nel luddismo, tutti gli ismi che non vogliamo sentire? Ma vede, io vedo il problema da un'altra angolazione e dico questo: sono appena disceso da una navicella spaziale da Marte e vengo sulla Terra, dove apprendo che c'è un sistema che si chiama sistema capitalistico, che si basa sul diritto di proprietà. Piaccia o non piaccia, è questo. Allora io dico una cosa, ma non è singolare, domanda retorica, che gli azionisti di una società, che sono i proprietari, diciamo quelli che hanno il diritto di proprietà sulla società, non abbiano il diritto di approvare la paga dei loro top manager esecutivi? Questa è un'assurdità, eppure è così in quasi tutto il mondo. Il referendum svizzero pone una qualche barriera a questo, ponendo appunto dei limiti. Io penso che in un sistema capitalistico spetti agli azionisti approvare la remunerazione non solo dei non esecutivi, come fanno regolarmente tutte le assemblee. In assemblea gli azionisti approvano le remunerazioni dei non esecutivi. Quelle degli esecutivi sono determinate dal Consiglio, e va, diciamo, al riparo della discussione dell'assemblea. Io trovo che questo sia una cosa da tempi lontani, quando, come accennava lei prima, magari c'era anche un rapporto ben diverso fra minimi e massimi. Oggi siamo a 200, 300, 500, 1000, possiamo dire quello che si vuole. Io trovo che sia assurdo che ci siano persone che possano guadagnare in un anno 20, 30, 40, 50 milioni di euro o di dollari, fa qualche differenza ma non tantissima. Io non credo che ci sia nessuno che vale quella cifra come lavoro. Si è perso il significato della remunerazione del lavoro. Quelle cifre non remunerano un lavoro di una persona, remunerano il lavoro di tantissime persone, il capitale degli azionisti, e c'è qualcuno che porta via la crema, la panna, il latte, lascia solo il siero. Questo è assurdo, è una delle cause della crisi, fra l'altro, perché nel settore finanziario i grandi rischi hanno portato ai grandi bonus e dopo hanno portato ai grandi crolli. Quindi che ci sia... Sì, dettaglio appunto non da trascurare, perché parte di questi bonus milionari venivano attribuiti a top manager di banche d'affari che poi sono state, diciamo, le artefici della bolla finanziaria, per essere buoni, del 2008. Però vorrei chiedere una cosa. Lei diceva dovrebbero essere gli azionisti a decidere, perché in questo momento, lo dico anche a chi scrive, quello che succede di solito è il consiglio di amministrazione che decide qual è il bonus. Il problema è che lì, lo dico con massimo rispetto, c'è sempre il rischio che, insomma, cane non morda cane, no? Cioè, uno dà una remunerazione alta all'amministratore delegato e a loro volta i vari consiglieri hanno un gettone di presenza alto, no? Sì, diciamo, questo rischio c'è con tutta la buona volontà dei comitati di remunerazione. Certo. Diciamo, le aziende partono dal presupposto che se non si danno quei cifre milionari, i grandi nomi se ne vadano. Io avrei i miei dubbi, sono convinto che nella maggior parte dei casi gli amministratori delegati lavorerebbero anche a metà dello stipendio che ricevono, comunque sontuoso. Certo, se gli offrono il doppio lo prendono, lo prenderei anch'io, non li biasimo. Sono gli azionisti che non fanno. Quindi lei dice, più che fissare un tetto, facciamo decidere agli azionisti quando vanno in assemblea se vogliono dare quella cifra o qualcos'altro. Quindi lei è contrario al tetto. È una soluzione di mercato. Sì, è contrario al tetto in senso rigido, anche perché io non ho ben capito poi come si farebbe a calcolare questo tetto, lo devo dire molto. È difficile da calcolare, penso che il tetto si potrebbe anche mettere molto alto, però perché insomma possono esserci anche delle situazioni che lo meritino, ma sono veramente rare. Poi succede che, come nel caso di Novartis, che lei ha citato prima, di Vasella in Svizzera, 68-70 milioni quanti sono, succede che si scopre che i bilanci della società, la tassazione e tutto, erano anni che erano, diciamo, come dire, piegati anche verso l'obiettivo di ottenere un alto pacchetto in uscita, quindi ci sono veramente delle distorsioni. Sì, poi si creano anche delle distorsioni. No, ma io sono dell'idea, insomma, votiamo non solo la politica di retribuzione, ma proprio le retribuzioni vere e proprie. Faccio una precisazione nel ringraziarla. È diverso se uno è proprietario della sua gruppo, della sua azienda, se sei azionista di maggioranza. Voglio dire, lì rischi di tuo, ma un manager è uno che viene preso per fare un lavoro, è un dipendente anche lui, non è il proprietario. Abbiate pazienza, il proprietario può fare quello che vuole, poi si arrangerà lui se i profitti, invece che investirli, li usi in altro modo, no? Grazie Salvatore Bragantini. Un'ultima nota, la rivolete? Sì, il rapporto è salito da 1,35 a 1,275 volte. Pensate che tra il 1993 e il 97 i manager più importanti delle 1500 società quotate hanno ricevuto 68 miliardi di dollari di bonus. Dal 99 al 2003 la somma è raddoppiata a 122 miliardi di dollari, con un peso in termini di percentuale sulle aziende dal 5% rispetto agli utili aziendali, si è passati al 10% degli anni 2000. Sarà un caso che quando Mattei morì improvvisamente, l'ENI dovete cercare una forma anche di sussistenza per la moglie, tanto poco aveva lasciato Mattei. E forse sarà un caso che Valletta, il mitico creatore della Fiat del dopoguerra, guadagnava 20 volte un suo dipendente, Marchionne ne guadagna 1000 volte. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.